Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, trasmissione animalista, antispecista e vegan per una società cruelty free. Dal 2012 la nostra piccola redazione è impegnata a portare la questione animale sulle onde radiofoniche, affrontando vicende di attualità e cultura con un'attenzione particolare al rapporto tra la specie umana e le altre specie viventi, in particolare gli animali non umani. Questa è la prima puntata del 2022 e la dedicheremo a una selezione di commenti, interviste, musiche, servizi da alcune delle nostre puntate migliori del 2021, ricordandovi che nel nostro blog restiamoanimali.it potrete trovare un ottimo motore di ricerca, centinaia di ricette vegane e il podcast di tutte le nostre precedenti puntate, incluse quelle che citeremo proprio in questa trasmissione. Perdona sempre, noi uomini perdoniamo a volte, la terra però non perdona. Se abbiamo offeso la terra, la risposta sarà terribile. Queste sono parole pronunciate da Papa Francesco nella Giornata Mondiale della Terra nell'aprile del 2020, subito dopo lo scoppio della pandemia nel mondo. E nel 2020 è uscito L'Assemblea degli Animali, un libro pubblicato da Giulio Einaudi, il cui autore ignoto si cela dietro lo pseudonimo Filelfo. Si tratta di una fiaba che immagina una riunione di tutti gli animali del pianeta per salvare la Terra dai danni arrecati all'umanità. Piena di meravigliose invenzioni, L'Assemblea degli Animali è una favola che racconta la storia più urgente del nostro tempo. Il libro che i ragazzi leggeranno agli adulti e che gli adulti leggeranno ai bambini. Nel mese di giugno del 2021 Gianluca Felicetti, presidente dell'associazione LAV, Lega Anti-Vivisezione, una delle più importanti associazioni animaliste italiane, ha intervistato l'autore misterioso, Filelfo. E Lorenzo Guadagnucci ci ha raccontato in sintesi questa intervista nella nostra puntata numero 592. Merita di essere letta e citata l'intervista che il presidente della LAV ha realizzato, questa volta da intervistatore, con Filelfo, l'autore della fiaba L'Assemblea degli Animali, pubblicata da Einaudi, di cui abbiamo già avuto occasione di parlare in passato. L'intervista è uscita su Extraterrestre, l'inserto settimanale del manifesto dedicato ai temi ambientali. Vogliamo citare l'ultima domanda e l'ultima risposta dell'intervista. Cosa avremmo imparato dalla pandemia, chiede Felicetti, la catastrofe che da un anno ha messo in ginocchio il mondo? Si parla spesso in questi tempi, risponde Filelfo, del bisogno di un nuovo umanesimo, dimenticando però le premesse di quello originario. Umanesimo non significa mettere l'uomo al centro dell'universo come se fosse il padrone del cielo e della terra, ma renderlo armonico con il resto del mondo, che siano altri uomini, animali, piante, cristalli. Per questo, alla parola umanesimo, preferisco animalesimo, perché contiene la parola anima, senza distinzioni, poiché l'anima è di tutti e il copyright è detenuto, da sempre e fino a prova contraria, dalla parola animali. Tra le molte notizie luttuose del 2021 c'è anche la scomparsa di Franco Battiato, un artista che ha sempre mostrato una sensibilità particolare verso il mondo animale. Nel maggio scorso, durante la puntata numero 590, abbiamo riproposto un'intervista al grande maestro, forse una delle ultime, curata dal nostro Giuseppe Coco. Vivo come un cammello in una grondaia. In questa illustre ed onorata società. E ancora sto aspettando un'ottima occasione

No, ma beh, lo stai usando come una tecnica. Come una tecnica, sì. Il bene è il migliore dei giudici. Quale tipo di bene come miglior giudice vedite? Beh, sai, negli ultimi anni di questa mia vita esistenziale, insomma, no? A poco ho cambiato prospettiva, al di là del fatto che non ho attaccamenti, quindi non mi metterei più a criticare, come dire, se potessi aiutare qualcuno ancora di più, come faccio certe volte per alcune cose, è determinante. Tutto l'universo obbedisce all'amore, come puoi tenere nascosto un amore? Gli animali in questo bene dove stanno? Beh, sai, non sono facili, cioè quando si parla di libero arbitrio non è facile individuare, è una cosa difficile, credo che ci siano degli animali che possono essere anche superiori agli uomini in certi casi. Bene. La estación de los amores viene y va, y los deseos no envejecen a pesar de la edad. Si pienso en cómo he malgastado yo mi tiempo, que no volverá, no regresará más. La estación de los amores viene y va, y llegará sin avisar, ya verás, te sorprenderá. Tuvimos tantas ocasiones perdiéndolas, no las llores más, no las llores hoy más. Le queda un nuevo entusiasmo por latir al corazón y otra posibilidad de conocerse. Los horizontes perdidos no regresan jamás. Uno degli ospiti più onorevoli delle nostre trasmissioni è senz'altro il professor Luigi Lombardi Vallauri, filosofo, animalista, amico della non violenza, autore di tanti testi essenziali per l'avanzamento, non solo giuridico, di una nuova prospettiva che superi l'antropocentrismo. Nel marzo del 2021 è uscito, per i tipi di Doppia Voce, il suo ultimo libro, intitolato Crudeltà. A metà ottobre del 2021, nella puntata numero 611, il nostro Lorenzo Guadagnucci ha intervistato il professor Vallauri su questa sua ultima fatica editoriale. Siamo con il professore Luigi Lombardi Vallauri, filosofo del diritto, amico degli animali, autore di numerose opere riguardanti l'uno e l'altro campo. È un collaboratore storico di Restiamo Animali. Oggi parliamo dell'ultimo suo libro, uscito quest'anno. Ha un nome impegnativo, spiazzante, si intitola semplicemente Crudeltà. È pubblicato dall'editore Doppia Voce. Può essere definito come un repertorio delle crudeltà praticate nella storia dell'umanità. Sentiamo qual è il senso di questo libro. Il libro ha un suo schema, la parte principale è l'inventario, che è immenso. Direi è un inventario non inventariabile della crudeltà umana. Io ho provato a classificare e ho distinto sotto il profilo temporale crudeltà antica, crudeltà medievale rinascimentale, crudeltà moderna e crudeltà contemporanea. E sotto il profilo geografico-culturale occidentale e orientale e sotto il profilo della causa dell'origine degli autori pubblica, privata, sociale. Questo produce 24 combinazioni, ho scelto 10 che mi sembravano le più rilevanti, ma ripeto, il panorama è infinito. Allora l'immenso e terribile inventario pone il problema, il super problema, che cos'è che fa dell'uomo un animale così crudele, infinitamente più crudele degli animali feroci. Bisogna dire che il genio della crudeltà è certamente l'uomo. Io ho fatto un tentativo seguendo il crescendo dall'erba della crudeltà dei bambini fino agli alberi colossali della crudeltà pubblica, quella bellica e quella giudiziaria. Ho tentato delle spiegazioni radicandola anzitutto nell'esigenza egoica di autoasserirsi comunque, e poi da lì, in modo misterioso, il procede verso le crudeltà terribili che chiamo acuminate. Quindi abbiamo una fondamentale crudeltà di indifferenza: che cosa sono gli altri paragonati a me? Io sono la cosa principale, e da lì si va verso le forme terribili che spesso hanno delle super giustificazioni culturali, delle idee mito che vanno da patria o civiltà superiore per le colonizzazioni fino al dio degli eserciti e al dio degli inferni. La comprensione non è facile. Dalla comprensione non si può non passare al superamento se, come me, si crede che la crudeltà sia male, per non dire che sia il male. Il superamento io l'ho articolato in due tappe. Anzitutto l'orizzonte del sublime verso cui tendere, e questo orizzonte, la cosa più opposta alla crudeltà, è uno, l'amore per tutti gli esseri viventi; due, uno stato di meditativa beatitudine. Sono due componenti che rendono la crudeltà impossibile, superflua. Posto questo orizzonte verso cui tendere, ma quasi tutti noi pensiamo a ben altro nella vita, ho articolato un pentadecalogo, 15 aspetti del superamento che vanno dalla meditazione di consapevolezza fino all'inveramento di testi come la nostra Costituzione e come l'architettura costituzionale europea, che sono articolati superamenti di tutti i tipi di crudeltà fin qui evocati. Io ho terminato in modo incompleto, ma direi un libro come questo, scusate se l'ho scritto io, ma involontariamente, andrebbe letto da tutti, perché farebbe capire che cosa c'è nell'animo umano e quale è stata la storia dell'uomo e quale potrebbe e dovrebbe essere il futuro dell'uomo. Nel dicembre 2020 a Grugliasco, in provincia di Torino, una donna anziana è stata sbranata dai 5 cani della figlia. Erano 5 lupi cecoslovacchi vittime di selezione genetica e ibridazione con lupi selvatici. Da questo episodio è nato un acceso dibattito con allevatori e amanti del cane di razza, da una parte, che difendevano la pratica, e animalisti e persone di buon senso, dall'altra parte, che la condannavano. Nella nostra puntata numero 572